Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Oh, Chiara, delle finestre, sì. Gli chiediamo. Sì, sì, io direi, la prima cosa che chiediamo è se ci sono le finestre e come sono. Poi vediamo, insomma, se vanno in discoteca, vediamo. Benvenuti a Mebius, stiamo per iniziare adesso i titoli e poi andiamo laggiù, in fondo, dove fa freddissimo. Ci colleghiamo con il Polo Sud, dove la base italiana in Antartide ha riaperto i battenti. Come si vive laggiù quest'anno e che ricerche fanno? È partito Curiosity, il più grande laboratorio intelligente mai inviato su Marte. La mente che mente, ovvero le mille situazioni nelle quali inganniamo noi o altri. A Londra, una mostra sulle grandi innovazioni che hanno cambiato la nostra vita. La gruccia appendi abiti, il filtro per il caffè e la matita. Fin dall'inizio della rete, i siti dedicati alla salute sono stati fra i più seguiti e, arrivati ad oggi, hanno rivoluzionato il rapporto fra medico e paziente. Allora, Chiara, glielo chiediamo subito? Sì, direi che è l'informazione fondamentale da sapere prima di iniziare. E lo chiediamo a? Marino Vacchi, che è in questo momento coordinatore scientifico delle ricerche che si stanno facendo nella base italiana in Antartide. Signori, stiamo per collegarci con l'Antartide. Buonasera, Vacchi. Buonasera. Come sta laggiù? Tutto bene. Il periodo in cui stiamo svolgendo il nostro lavoro è caratterizzato da un tempo veramente ottimo. Nel caso specifico la copertura di ghiaccio ci permette anche di studiare certi aspetti importanti della dinamica del ghiaccio marino. In termini di spazio, quanto è grande la base? Dunque, la base ha la possibilità di ospitare un centinaio di persone, tra logistici e ricercatori, quindi le zone per ospitare le persone, ma anche i laboratori in cui i ricercatori svolgono la loro ricerca. Ecco, per cronaca stiamo parlando della stazione Mario Zucchelli, che è situata nella baia di Terranova vicino al mare di Ross, che è appunto la base dove si fa ricerca italiana, dove svolgono ricerche l'ENEA, il CNR e questo programma di ricerca in Antartide italiano. Allora, Rino Vacchi, noi ci domandavamo, ma lì fa un freddo tremendo, le finestre dalle quali entra sempre freddo, le vostre, le avete? E se le avete, come sono fatte? Le nostre finestre ci sono, e sono ben coibentate e ci permettono appunto di avere anche delle visioni all'esterno di questo paesaggio antartico. C'è molta luce, a volte per conciliare il sonno dobbiamo addirittura un po' oscurarle. Ma ecco. Sì. Ecco, lei è ricercatore dell'ISPRA, che appunto si occupa di ricerca per l'ambiente. Che cosa fa lì, che cosa coordina, che tipo di ricerca si fa lì? Il mio progetto in particolare riguarda lo studio dell'influenza che ha la dinamica stagionale del ghiaccio marino sugli organismi marini. Abbiamo trovato infatti che vi sono molti organismi, anche tra i pesci, che sono molto legati nei loro cicli biologici alla dinamica del ghiaccio marino stagionale. Studiarli bene, definire bene quali sono i legami col ghiaccio stagionale, ha una notevole importanza per prevedere quelle che possono essere vulnerabilità o i problemi legati ai cambi climatici che influenzano chiaramente la dinamica del ghiaccio marino. Ecco, ghiaccio marino, che cosa si intende? Ci spieghi bene, cioè quando il mare si ghiaccia intorno al continente? Esatto, tutti gli anni durante l'inverno australe l'Antartide in pratica raddoppia la sua superficie. E quindi da 18 milioni di chilometri quadrati, che è l'estensione del continente antartico, duplica la sua superficie con il mare che ghiaccia intorno alle coste dell'Antartide, arrivando appunto ad un'estensione pari a quella del continente antartico. Questo fenomeno di grandissima rilevanza risulta molto importante per tutto il ciclo biologico e l'ecosistema marino dell'Antartide. Studiarlo in modo prioritario risulta molto importante per capire quali possono essere appunto gli effetti legati ai cambi climatici che chiaramente influenzano la formazione stagionale di questa estensione di ghiaccio temporanea. Perché nonostante siate nel punto più freddo del mondo, ci sono delle differenze stagionali di temperatura abbastanza significative? Sicuramente ci sono delle differenze di temperatura a livello stagionale notevole. Durante l'estate nel mare di Ross, quasi tutto il mare di Ross si libera dal ghiaccio. La formazione poi durante l'inverno assume proprio un carattere di grande rilevanza. In alcune zone dell'Antartide, come la penisola antartica, che è la punta dell'Antartide rivolta verso il Sud America, si stanno notando effettivamente dei fenomeni preoccupanti, riguardano il ritardo della formazione del ghiaccio marino, ma anche degli effetti sulle lingue dei ghiacciai costieri che arrivano fino al mare. Vacchi, a parte voi esseri umani, che altri esseri viventi avete lì vicino? Chi vedete? Allora, la zona del mare di Ross, dove è costruita la base italiana di Mario Zucchelli, è una zona tra le più ricche in termini di biodiversità. Abbiamo delle colonie di pinguini imperatore e di pinguino di Adelia. Ci sono poi diverse specie di foche, tra cui la più abbondante, stabilmente presente anche in inverno qui a Baia Terranova e nel mare di Ross, è la foca di Weddell. Esiste anche la foca leopardia. Ci sono poi anche delle discrete abbondanze di cetacei. La più comune specie è l'orca. Veramente affascinante, sì. E in conclusione, Vacchi, com'è lì la vita? Cioè, vi annoiate la sera? Cosa fate? Non so. Escono? No. Alla sera rimane abbastanza poco tempo, si può appunto avere quella piccola pausa in cui si sta un po' assieme, magari si può vedere un film assieme, a volte si fanno anche dei seminari scientifici. Perché lì la televisione non arriva, non prendete canali? No, non prendiamo canali, abbiamo, va bene. Che fortuna. Dei DVD, possiamo vedere appunto i film in questo modo. Allora, veramente in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie mille, arrivederci. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Cellulare in mano, perché adesso arriva il quiz. Quegli appendiabiti in ferro che si usano nelle tintorie, come sono stati inventati? Prima possibilità, è stato il proprietario di una tintoria di New York, banalmente, e ci scriverete tintoria. Un signore che ai primi del Novecento è arrivato in ufficio vedendo tutti gli appendiabiti in legno occupati dai colleghi, prese un fil di ferro e lo piegò genialmente, e ci scriverete ferro. Terza e ultima possibilità. Venne fuori per caso da una macchina di un'azienda che produceva fil di ferro. La macchina si è rotta ed è uscito un pezzo molto simile a un appendiabiti. Ci scriverete macchina, scriverete sempre con il solito SMS 349-238-6666. Il libro che si vince è Sanità e Web, come internet ha cambiato il modo di essere medico e di essere malato in Italia, scritto da Walter Gatti, edito da Springer Italia, e questo libro è offerto da libreriarizzoli.it. La soluzione del quiz la sentirete un po' più avanti all'interno di un nostro servizio. Su Marte, Alberto. Sì, su Marte. Alberto Agliotti, qua con me. Ciao Federico, buonasera a tutti. Tu qui, ma non su Marte. Sì, non su Marte. Ma nemmeno le nostre ospiti sono su Marte, però la sonda è partita e ci sta andando. E ci sta andando. I nostri ospiti. Allora, abbiamo Silvia Rosa Brosin, giornalista buonasera. Scientifica, buonasera. E poi abbiamo Simona Di Pippo, buonasera Di Pippo. Dall'Agenzia Spaziale Europea, dove lei lavora da tempo. Allora, ci sono due o tre cose piuttosto interessanti su questa sonda, Alberto. Forse la prima è anche questa vicenda, insomma, che ci rende abbastanza felici, dell'effigie elettronica di Leonardo. È proprio così, infatti, Leonardo è in volo verso Marte. Leonardo lui, da Vinci. Leonardo lui, o meglio il suo autoritratto, o meglio ancora appunto una riproduzione digitale del suo autoritratto, ma non solo quello, c'è anche una copia del codice del volo. Accidenti. Tutto questo grazie proprio a Silvia Rosa Brosin. Com'è andata? Guardate, è successo una specie di cortocircuito mentale. Era all'inizio dell'anno, avevo appena ricevuto gli auguri di buon anno dal JPL, che è il più grande centro spaziale per l'esplorazione robotica dello spazio, appunto un centro della NASA, e stavo passando davanti alla Biblioteca Reale di Torino, dove sono conservati l'autoritratto e il codice del volo degli uccelli di Leonardo. E mi è venuto in mente, perché non far incontrare questi due mondi così lontani, ma che in fondo sono legati. Ho chiesto alla direttrice Clara Vitolo, che era una donna veramente fantastica, se sarebbe stata disposta a tirare fuori il codice del volo dal cavò e metterlo tra le mani dello scienziato che in qualche modo rappresenta la continuità degli studi di Leonardo Charles Sellacci, che è il direttore del JPL, e lei ha detto sì, e insomma poi tutto è andato di conseguenza. Emozionante abbastanza, credo. È un po' strano. Abbiamo organizzato una puntata speciale del TG Scientifico, TGR Leonardo, abbiamo fatto incontrare fisicamente Leonardo da Vinci con il capo degli scienziati della NASA, che stanno facendo volare di tutto e di più attraverso il sistema solare. È stato un momento molto emozionante, poi mi è venuta anche questa idea, visto che il JPL è l'autore e creatore di questa sonda marziana che stava per partire, ha detto perché non mettiamo Leonardo sulla sonda e lo portiamo su Marte. Infatti io prima dicevo deve essere abbastanza emozionante per uno che lancia di tutto nello spazio avere tra le mani quel codice di Leonardo. Leonardo, quindi da giornalista inviata del TG Leonardo ha inviato direttamente Leonardo su Marte. Sì, c'è tutta una serie di coincidenze, poi per puro caso la trasmissione è andata in onda, era è stata fatta nel 2 di maggio, che è esattamente l'anniversario della morte di Leonardo da Vinci, ma non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto dopo, e il direttore del JPL, che ha fatto di più e di tutto nella sua vita, beh, devo dirvi che era veramente emozionato nel momento in cui ha ricevuto tra le sue mani il codice e Leonardo l'ha potuto sfogliare e commentare con noi. Bello. Bello. Ecco, ma diciamo che Curiosity, la sonda della NASA, però non è partita apposta per portare Leonardo su Marte, ma è andata con uno scopo ben preciso. Uno degli obiettivi della missione è quello di capire se c'è stata la possibilità che Marte ospitasse la vita. Sì, questo rover, tra l'altro, è il quarto robot che scende della NASA che scende sul suolo marziano. Pensate, abbiamo cominciato nel 97 con un oggettino grande come uno skateboard e adesso Curiosity è grande come un SUV, e a bordo ha una quantità di strumenti scientifici incredibile. Il principale, come avete detto, è proprio questo, per la ricerca delle molecole organiche nel suolo marziano. Una ricerca affascinante che viene fatta in un posto veramente incredibile, che è questo cratere Gale, 160 chilometri di diametro, che è stato scelto per la missione dopo che 100 geologi di tutto il mondo hanno guardato le immagini ad alta definizione che un'altra sonda della NASA per anni mandava giù, dicendo ma dove, se dovessimo andare a cercare tracce di vita, dove? Ed è stato scelto Gale, che è un posto incredibile perché immaginate una cosa circolare con delle pareti scoscese e al centro una montagna di 5.000 metri, quindi più alta del Monte Bianco, e lì tenterà di atterrare esattamente ai piedi di quella montagna che assomiglia un po' a uno di quei luoghi del Grand Canyon, tutto a strati sedimentari, la sonda Curiosity, con un atterraggio che non si sa come riusciranno a fare, però speriamo che riescano a farlo. Ecco Simona Di Pippo, poco fa Silvia diceva cercherà di atterrare proprio vicino alla montagna e questo ammartaggio di Curiosity è una assoluta novità nella storia dei lanci spaziali e delle sonde, proprio in termini anche di precisione. Com'è che è congegnato? Sì, in realtà fino ad ora, diciamo, tutti gli oggetti che la NASA ha fatto atterrare sulla superficie di Marte sono atterrati attraverso un sistema di airbags, quindi praticamente la sonda arrivata vicino alla superficie faceva gonfiare in qualche modo il sistema, consentiva appunto agli airbag che proteggevano quindi questa sonda di gonfiarsi e di conseguenza le sonde atterravano sulla superficie di Marte rimbalzando poi fino a che si fermavano naturalmente dopo un certo numero di rimbalzi. A quel punto questi airbags si sgonfiavano, la sonda si apriva perché solitamente era fatta con dei petali che quindi venivano poi aperti e a quel punto il piccolo rover, piccolo o più grande perché Spirit and Opportunity in realtà erano un pochino più grandi dello skateboard che citava prima Silvia, e uscivano in un modo abbastanza anche complesso da questo sistema, certe volte addirittura con qualche problemino magari di intralcio dovuto agli airbags. Il problema qual è però? Che per atterrare esattamente in un'area abbastanza ristretta intorno al punto che si vuole andare, alla zona che si vuole andare a studiare, e anche in preparazione di future esplorazioni, anche umane, che verranno, diciamo, non domani, ma sicuramente occorre prepararci, è necessario avere sempre di più degli atterraggi di precisione e anche sempre più soft, come li chiamiamo noi, quindi con degli atterraggi che consentano anche alla strumentazione a bordo di questi rover, di queste sonde, di rimanere intatti e di non subire quindi shock. E quindi in questo caso specifico per la prima volta si è applicato, diciamo, questo nuovo concetto, il concetto dello sky crane. In sostanza quello che avviene è la seguente cosa: la sonda entra nell'atmosfera in modo classico, ad una certa altezza parte il paracadute, ma a un certo momento la sonda si distacca dal paracadute, con una serie di razzetti mantiene l'assetto praticamente, è una discesa controllata, fino a che, quando è sufficientemente vicino alla superficie di Marte, rilascia con dei cavi il rover, questo grosso veicolo che, come diceva Silvia, è grosso più o meno come un SUV. Quando appunto tocca con le ruote la superficie di Marte, i cavi vengono recisi e quindi il rover atterra in modo tranquillo, soft e abbastanza controllato, mentre la sonda, grazie anche a questi razzetti che consentono di controllarne il movimento, praticamente viene iettata rispetto alla traiettoria e quindi va a cadere lontano rispetto al rover. Questo consente di avere un atterraggio, come dicevo, soft, ma anche più controllato come punto di atterraggio, perché una delle cose che io dico sempre è che se qualcuno, qualche altra diciamo intelligenza, volesse esplorare il pianeta Terra e atterrasse o nel deserto di Atacama oppure nella foresta pluviale, avrebbe di due immagini della Terra e quindi completamente diverse da una Terra diversa. Quindi anche in questo caso noi dobbiamo essere mirati per andare a studiare esattamente la zona che gli scienziati hanno indicato come la più probabile per la presenza di vita. Silvia, ricordaci velocemente in conclusione quando arriva su Marte? Agosto. Il 6 di agosto. Grazie Silvia. Grazie a voi, io dico solo una cosa, è vero che non è partita per Leonardo questa sonda, però a Leonardo questo viaggio sarebbe piaciuto tantissimo. Grazie anche grazie a Simona Di Pippo. Grazie a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La mente che mente. Curiosamente nella nostra lingua, l'italiano, abbiamo una parola, la mente, mente, e un verbo mentire che poi coniugati in questa frase danno vita a una breve frase ma che però contiene un intero universo. È il tema di un appuntamento del 12 dicembre alle ore 18 a Roma, organizzato dalla Fondazione Sigma Tau al Teatro Studio presso l'Auditorium Parco della Musica. E Massimo Picari, buonasera Picari. Buonasera. Direttore della Fondazione, coordinerà anche questo dibattito che però, insomma, ad occhio e croce potrebbe durare anche due mesi ininterrottamente. La mente che mente è forse tutto il pianeta, cosa dice? Ma direi assolutamente di sì, anche perché lo facciamo tutti e lo facciamo piuttosto spesso, non è neanche raro. Ci sono degli studi relativamente recenti che dimostrano come la gente, quindi noi tutti, mentiamo in un quinto degli incontri sociali che durano 10 minuti o di più, e che addirittura mentiamo in un terzo delle conversazioni private. Oddio, sempre al collo. Praticamente sempre. Beh sì, qualcuno lo definisce un lubrificante sociale, cioè il pettegolezzo e quant'altro, ma in realtà è una condizione, una situazione, un'attività, ecco. Diciamo, È un'attività, che facciamo molto più spesso di quanto non crediamo, e poi è un'attività nella quale applichiamo dei metri completamente diversi, cioè quando lo fanno a noi ci arrabbiamo, ci secchiamo, non ci piace, però poi noi siamo dispostissimi a farlo con gli altri anche in maniera innocente, e questo poi farà parte di quello che vedremo durante l'incontro. C'è il mentire, immagino che lo affronterete, c'è il mentire buono, quello che serve, lei poco fa diceva un lubrificante dei rapporti sociali, è qualcosa che in effetti può servire per migliorarli, e poi invece c'è il mentire aggressivo, no? Ma assolutamente sì, questo fa parte, diciamo, delle forme della bugia in pratica, perché a questo punto noi abbiamo, come dicevamo, un inganno sociale che in qualche modo ha la funzione di facilitare i contatti e i rapporti sociali. Se io la invito a cena e le faccio qualcosa che ritengo particolarmente pregevole, poi magari mi scappa la mano e ci metto più sale di quello che ho dovuto, lei magari lo mangia per cortesia, alla fine le chiedo se era buono e lei molto gentilmente mi dice sì, buono, molto saporito, magari buono, e questa è una bugia a tutti gli effetti, però è una bugia di tipo cosiddetto bianco, cioè una come si chiamano anche bugie bianche, una bugia sociale, una bugia non dannosa, una bugia di cortesia, diciamo. Anzi, proficua. Esattamente, è opposta alla bugia che tira ad ingannare l'altro, e lì le classificazioni possono essere varie. Per esempio, qualcuno non sa che oltre alla bugia in cui noi inventiamo veramente qualcosa e quindi raccontiamo un fatto che non è accaduto, esiste anche un altro tipo di inganno, quindi di bugia, di menzogna, che consiste nella omissione. Cioè io potrei non dirle una parte di verità e lei, in base alle informazioni che le do, potrebbe arrivare a delle conclusioni sbagliate. Se io lo faccio con dolo, questo è un tipo di bugia che equivale in gravità, quantomeno dal punto di vista morale, ma anche degli effetti, esattamente all'inventare completamente una storia. Nell'arte della politica questa cosa emerge spesso e volentieri, nell'arte della diplomazia, e voi anche questi aspetti di politica, di sociologia, quella complessa, alta, no? Quando si incontrano e scontrano i paesi, voi tratterete anche questi aspetti. Ma vede, noi non faremo politica, ma ci occuperemo anche di politica. Ah beh, certo. Credo che se non esistesse la menzogna, come giustamente notava lei, non esisterebbe la politica, non esisterebbe la diplomazia, non esisterebbero tantissime cose. C'è un caso storico che è rimasto paradigmatico a questo proposito, è quello che successe a Chamberlain quando andò da Hitler, tornò in Inghilterra, e lo sappiamo tutti, e disse: per carità, ottima persona, ci si può fidare. Poi sappiamo come è andata a finire. Era pochi mesi prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Nel vostro appuntamento però ci sono anche degli psicobiologi come Oliverio, quindi vedrete anche l'aspetto più strettamente mentale del mentire. Ma assolutamente sì. Il nostro appuntamento nasce, l'idea di questo appuntamento nasce dalla volontà di esplorare l'universo della bugia, credo che a questo punto lo possiamo chiamare così, a 360 gradi, quindi sia da un punto di vista neurologico, psicologico, capire che cosa succede alla nostra mente quando mettiamo in moto il meccanismo della menzogna, che è un meccanismo a un certo punto un po' innaturale da certi punti di vista, e naturale da altri, nel senso lo fanno anche gli animali, lo fanno le piante, i camaleonti mentono quando mimetizzano, il polipo mente, delle piante che hanno dei colori per attrarre poi insetti, per prelevare il polline, impollinare altre piante o per mangiarli questi insetti, ingannano, certo. Lo fanno gli animali, però loro sono capaci di un tipo di inganno molto breve, si chiama inganno strumentale, inganno a breve termine, non sono capaci di cosiddetto inganno a lungo termine che viene definito tradimento, quello che presuppone la costruzione di una sorta di sé posticcio che in qualche modo ci deve accompagnare in questo inganno. Quindi dicevo, la vedremo dal punto di vista neurologico con Alberto Oliverio, psicobiologico, la vedremo dal punto di vista sociologico, anche se poi non è un sociologo, Paolo Fabbri, ordinario di semiotica dell'arte e letterature artistiche presso l'Università di Venezia, e se vogliamo l'arte è una forma di bugia, perché l'arte sì, in qualche modo la letteratura mente, quindi sarà interessante ascoltarlo. Ma la vedremo anche dal punto di vista, io la chiamo, della strada. Luciano Garofano, che è un generale a riposo dei Carabinieri, che tutti conosciamo perché è assurdo agli onori delle cronache col RIS di Parma, lui è responsabile del RIS di Parma, e ha trattato i più importanti casi giudiziari degli ultimi 15-20 anni in Italia. Quindi avremo la testimonianza di chi con i bugiardi, chiamiamoli così, duri, quelli che poi mentono perché hanno magari ucciso o commesso crimini importanti, ha avuto a che fare, e quindi ci porterà la testimonianza di coloro che all'interno e sono più direttamente chiamati a capire quando è che questi mentono e quando no. E un altro aspetto centrale che cercheremo di approfondire è perché è difficile capire quando gli altri ci mentono e se possiamo imparare a capire quando gli altri lo fanno. Questa è un'attività nella quale bisogna essere addestrati, ma probabilmente è possibile migliorare le nostre capacità di comprensione da questo punto di vista. Auguri, perché è immenso, sarà interessante vedere come ne uscirete fuori, ma probabilmente è un primo Di altri appuntamenti ricordo ore 18 il 12 dicembre a Roma, Teatro Studio presso l'Auditorium Parco della Musica. Piccari, grazie. La ringrazio, grazie a lei. E buon lavoro, arrivederci. Barbara Galavotti è stata a Londra a visitare una mostra sulle invenzioni che hanno sconvolto la nostra vita. Ciao Barbara. Ciao Federico, buonasera a tutti. Dimmene una. Il nastro adesivo. Oh, è fantastico. È o non è qualcosa che ha cambiato completamente la nostra vita? Dimmene altre due. La penna sfera e la chiusura lampo. Siamo d'accordo sul fatto che sono grandissime invenzioni. Sono assolutamente geniali, sono quelle invenzioni a prova di idiota che nessuno può non capire come funzionano e appena le vedi non puoi più farne a meno. E infatti questa roba a prova di idiota, insomma, è esplicito nella mostra, no? Questa... Assolutamente, assolutamente, devono essere oggetti che diventano indispensabili ma che non hanno nessuna particolare complicazione nel funzionamento. Quelli che saranno ancora fra noi esattamente così come sono, perché sono già perfetti, quando, per dirne una, il telefonino, il computer, il DVD saranno diventati dei dinosauri obsoleti. Ricordiamone qualcun'altra? Beh, dunque, il Lego. Il Lego. Se vogliamo restare fra i bambini, il ciuccio. Il ciuccio, certo. Io vedo anche il rossetto. Il rossetto, il filtro per il caffè all'americana. E hai presente quell'accetto di plastica che serve per portare sei lattine tutte insieme? Ecco, quello lì è stata un'invenzione fantastica perché è il modo più semplice, economico e non ingombrante per creare una specie di maniglietta che ti consente di portare insieme sei lattine, sei bottiglie, sei qualcosa. Proviamo a pensare a non averlo, tu c'hai due braccia occupate a tenere sei lattine, eh sì, no? Una in testa probabilmente, perché se no come potresti portarle? Mi pare che la più vecchia, perché questo è un dato di questa invenzione, la più vecchia è la matita. È una delle più vecchie, nasce alla fine del Settecento, quando Nicolas Jacques Conté ha l'idea di incapsulare un bastoncino di grafite in un contenitore di legno. Perché in effetti prima si scriveva tenendo in mano il carboncino, se volevi scrivere, cioè ti sporcavi immediatamente la mano, no? E poi rompeva. Penso proprio di sì, per non parlare del disastro di scrivere con la penna prima che fossero inventate le penne a sfera. Ecco, sono tutte relativamente recenti, diciamo, questa è di due secoli e mezzo fa, le altre sono molto più avanzate. Anzi, qui dobbiamo risolvere il quiz. La gruccia porta abiti di ferro, com'è che è stata scoperta? Intanto ti dico che tra il 1900 nel 1906 l'ufficio brevetti americano riceve ben 89 richieste di brevetti per gruccia appendiabiti. L'idea della gruccia, quella fatta di fil di ferro, arriva nel 1904 da parte di un signore che aveva visto un suo dipendente arrivare in ufficio molto tardi, in una giornata di pioggia, e trovare tutte le grucce occupate. Quelle a muro, si intende dire? No, quelle erano probabilmente quelle gucce di legno che loro mettevano in un armadio per i dipendenti. Okay. E allora il genio che cosa ha pensato? Senza esitazioni ha preso un filo di ferro, l'ha piegato e ne ha fatto proprio quella gruccia tipica che ci danno in tintoria quando ci restituiscono i vestiti stirati da loro. E anche lì la differenza è enorme, perché se nelle tintorie avessero tutto il legno, a parte che non ci sembrano più foreste, ma uno spazio è molto superiore occupato. Uno spazio, un peso, una manodopera per fare le grucce di legno, che non sarebbe indifferente, oppure bisognerebbe farle di plastica, come in effetti esistono, però il modello della gruccia in metallo è imbattibile. Qui vedo in questo elenco infinito che tu mi hai mandato due grandi cose, l'ombrello pieghevole e le pinze da bucato. Sì, l'ombrello pieghevole arriva nel 1934 e lo inventa un tedesco. Strano che non sia un inglese, perché insomma un fatto di pioggia, invece è un tedesco. No, ma piove anche in Germania, sì. Però il colpo di genio sono le pinze per i panni. Allora, ce ne sono due versioni. Nel 1853 un signore che rispondeva alle pressanti richieste della moglie che non riusciva a far stare i panni sull'appendino, inventa una pinza che però non si stringe, è semplicemente un pezzo di legno con un intaglio che si incastra sul filo da stendere sul panno. Per avere la pinza, quella con la molla in metallo in mezzo, bisogna aspettare la metà del Novecento, e lo fa un italo-americano che si chiama Mario Maccaferri. C'è qualcosa di nostro. C'è qualcosa di nostro. In realtà ci sarebbe qualcosa di nostro che nella mostra non viene menzionato per un certo sciovinismo, perché quando parlano di lampadina si dimenticano di menzionare che una delle primissime lampadine, molto più efficiente di quella inventata da Edison, è opera di un italiano che è Cruto, che purtroppo è uno dei nostri eroi nazionali dimenticati. Dimenticati. Tu dici pinze da bucato, che in altre parti d'Italia si chiamano mollette, e qui si apre tutta una cosa singolare per quanto riguarda queste invenzioni, e cioè il fatto che sono rivoluzionarie assolutamente, però minime, e quindi sono chiamate in modo diverso nei gergali regionali. Per esempio, al nord la gruccia porta abiti si tende a chiamarla ometto. Di certo sono oggetti così familiari che hanno un nomignolo diverso dappertutto. Regione per regione. Senti, un'ultima cosa, Barbara. Sembrerebbe che con queste invenzioni fondamentali abbiamo, come dire, coperto completamente tutte le possibilità. Secondo te ce ne sono ancora altre di così geniali e con queste caratteristiche? Ma penso che devono esserci, perché no? Una cosa che mi sorprende di queste invenzioni è che sono tutte, come dicevi tu, piuttosto recenti. Ora, molte sono effettivamente recenti perché nascondono un sacco di tecnologia. Per fare una matita a livello industriale ci vogliono degli apparati che erano peraltro mostrati nella mostra, che non sono semplici per niente. Per fare una chiusura lampo devi trovare un modo per lavorare anche in maniera piuttosto fine del metallo e di farne in grandi quantità, quindi sicuramente non aveva senso parlare di questi oggetti prima della rivoluzione industriale, tranne per la molletta per stendere il bucato, quella senza molla, che francamente non si capisce perché non l'avesse già inventata il primo Homo sapiens che ha lavato un panno. Quindi sono oggetti che nella loro incredibile semplicità hanno dietro un sacco di tecnologia. Ora, non si vede perché non se ne debbano inventare di nuovi, anche considerando che di fatto stiamo sviluppando in continuazione nuovi materiali. Adesso abbiamo la tecnologia per fare molte cose in serie. Abbiamo sempre nuovi materiali. Io penso che dovremmo cominciare a pensare a qualcosa io e te, perché effettivamente manca qualche eroe nascosto al nostro elenco che forse potremmo inventarci noi. Suggerimento anche per gli ascoltatori, perché da tutte queste invenzioni credo che quelle che le hanno create, le hanno fatte, abbiano ricavato ben poco. Ho la sensazione che se troviamo la molletta del terzo millennio ci si fa trilioni di euro. Ciao Barbara, grazie. Grazie Federico, buonasera a tutti. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ascoltate ora Pier Giorgio Odifreddi. Se pensiamo al Settecento e ci chiediamo qual è la macchina che l'ha caratterizzato, qual è l'invenzione più importante che è stata fatta in quel secolo, subito il nostro pensiero corre all'orologio meccanico. Vi ricordate le vecchie pendole, che naturalmente sono derivate dagli esperimenti di Galileo e di Newton, e poi attraverso le invenzioni di Huygens, di Hooke e di tanti altri sono diventati per l'appunto l'orologio. L'orologio meccanico è diventato una metafora anche, una metafora filosofica, perché ha permesso di costruire una metafisica meccanicistica dell'universo da una parte e del corpo dall'altra. Ebbene, se noi ci facciamo la stessa domanda, ci chiediamo qual è la macchina, l'invenzione che caratterizza o che ha caratterizzato il passaggio dal XX al XXI secolo o addirittura dal secondo al terzo millennio, la risposta a questa domanda non può che essere una, ed è semplicemente il computer, la macchina per i calcoli universale, quello che una volta veniva chiamato il cervello elettronico. Inizia così il DVD di questa settimana della collana Beautiful Mind, che il Sole 24 Ore sta dedicando ai grandi scienziati di tutti i tempi. Questa volta tocca a Kurt Gödel e Alan Turing, certo, scienziati ai quali dobbiamo alcuni contributi fondamentali nello sviluppo della computer science. Due grandi scienziati, due uomini che con storie molto diverse hanno avuto una vita molto difficile. Sentiamo un altro passaggio del DVD, questa volta dedicato a Turing. Durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie all'utilizzo di una macchina chiamata Colossum, Turing e i suoi colleghi riescono a decifrare il codice di trasmissione usato dai tedeschi, il cosiddetto sistema Enigma, fornendo alla Marina Britannica un enorme vantaggio militare. Tuttavia, di lì a pochi anni, la vita dello scienziato subisce una drammatica svolta. Il 31 marzo del 1952 Turing è arrestato a causa di una relazione omosessuale e condotto in giudizio. La pena inflitta consiste in una cura ormonale che gli causa gravi scompensi fisici. Nella persecuzione omofobica subita viene generalmente identificata la causa del suo suicidio, avvenuto il 7 giugno del 1954 per mezzo di una mela imbevuta di cianuro. Il DVD di Kurt Gödel e Alan Turing lo trovate in edicola per tutta questa settimana. Sì, è giusto quello che dicevamo nei titoli, cioè che tra i primissimi siti della rete intorno al 93-94, i siti più visitati, già c'erano quelli che si interessano di medicina e di salute. E arrivati ad oggi, questo successo di questo insieme di siti internet è ancora altissimo e fortissimo. A tutto ciò è stato dedicato un libro. Da chi? L'autore qui con me, Walter Gatti. Buonasera Gatti. Buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Sei un collega, sei un giornalista di scienza e hai scritto questo libro denso, Sanità e Web, come internet ha cambiato il modo di essere medico e di essere malato in Italia, ed è edito dalla Springer Italia. Allora, sì, dicevamo giustamente che, e tu lo sottolinei in più momenti con molti dati nel libro, che tutti i siti internet nelle loro varie forme che hanno a che vedere con sanità, con medicina, con cure, con terapie, sono assolutamente tra i più visitati. Però adesso sono passati 15 anni, 16 anni dall'inizio della rete e questa ondata di informazioni già da qualche tempo sta cambiando, per esempio, il rapporto tra malato, paziente e medico. No? Che tipo di rivoluzione è in atto? Ecco, in realtà tu hai colto esattamente il motivo per cui a un certo punto io ho deciso di passare dall'essere un osservatore e un utilizzatore di internet in questa strana veste del commentatore che analizza e prova ad approfondire. Il dato è estremamente semplice, oggi come oggi la media dei medici italiani, che siano medici di medicina generale invece che pediatri o ospedalieri, si vede arrivare un paziente oppure una famiglia o comunque un cittadino italiano che di solito d'abitudine arriva già con il pacco di 3, 4, 5, 10 fogli scaricati e stampati da internet e la prima frase ormai non è più caro dottore ho questo dolore, ma caro dottore ho questo dolore e ho trovato su internet questa cosa, cioè ieri l'alleanza terapeutica che fino ai tempi di Ippocrate era io medico e te paziente, ecco, questa alleanza, questo rapporto fiduciario oggi come oggi cambia e viene messo un attimo in forse, viene un attimo terremotato perché in questa relazione si inserisce questa quantità di contenuti, di conoscenze che vengono portate in dote dal paziente. Ecco, ma tu dici un attimo, in realtà mi sembra che invece sia un qualcosa di intenso, di un bel cambiamento. È un cambiamento estremamente profondo perché fino a ieri noi sappiamo che la cosiddetta asimmetria conoscitiva, asimmetria informativa era a favore del medico. Io andavo dal medico e dicevo, dottore ho male qui, benissimo, hai raucedine, hai un'ernia iatale o quant'altro. Oggi come oggi non è più così scontato perché io arrivo dal dottore e gli dico, ma perché lei mi dice che il reflusso esofageo deriva da questo, invece io ho trovato che è quest'altro il motivo. Non è vero che non devo bere caffè, semplicemente non devo mangiare cioccolato. Oppure ho trovato all'interno di questo sito che se io prendo questo posso bere tutti gli alcol che voglio. Ecco, evidentemente c'è una trasformazione radicale che noi sappiamo si innesta su un'altra trasformazione, cioè la figura del medico in questi ultimi 20-30 anni è profondamente cambiata, non è, il medico non soltanto in Italia, in tutto il mondo, non è più questo grande padre che riesce a risolvere i problemi soltanto con l'imposizione delle mani o con un buono sguardo. Oggi come oggi il medico è entrato all'interno di un mondo di tecnica, di soluzioni tecnologiche e di farmaci ritenuti miracolosi, per cui se non si guarisce a priori il medico viene messo in discussione. Ecco, all'interno di questa nuova chiave della visione del medico, che evidentemente non è una cosa che ci inventiamo oggi, già negli anni 40-50 Carl Jaspers aveva analizzato questa figura in un modo antropologico totalmente diverso da come nei precedenti 2000 anni era stato fatto. Ecco, oggi il medico che sta cambiando e non è più così un riferimento affidabile, si vede il paziente che arriva con la sua dose di empowerment. Ecco, però fermiamoci un attimo, perché qui c'è una questione sottile. Da una parte c'è il problema che la rete fornisce una quantità di informazioni immensa e quindi maneggiarla non è certamente facile e possono venire fuori delle interpretazioni sballate. Dall'altra però, indubbiamente, per esempio, tutti quei siti che consentono ai malati di un qualcosa di confrontarsi coi sintomi, producono una cultura del malato singolo che non si sente più solo, scambia informazioni con gli altri e quindi può portare un arricchimento nel dialogo con il medico. Ci sono entrambe queste facce. Adesso poi il medico negli ultimi anni è cambiato, ma ricordiamoci che veniamo da una tradizione nella quale quando il malato chiedeva al medico qualcosa sulla sua malattia, quasi quasi gli si diceva: ma lei non si interessi, stia lì che io la sto visitando, poi le do le cose che serve. No? Cioè il corpo era separato dalla testa. Ecco, ci sono sia gli aspetti positivi che gli aspetti problematici negativi. Allora, assolutamente sì, cioè, metterei una firma a tutto ciò che hai detto. È chiaro che fino a poco tempo fa, e questa è una delle tante cose di cui si dibatte all'interno dell'ambito della professione medica, fino a poco tempo fa non si capiva bene se il medico stesse curando la persona o la malattia. Tante nuove riflessioni, o meglio, il ritorno di un certo tipo di humanitas all'interno dell'ars medica fa sì che oggi si stia un pochettino superando questo tipo di tendenza. Tanti esempi, come ad esempio in Italia la nascita di Slow Medicine, che è una sorta di movimento rete di medici che cercano di affrancarsi dalla medicina intesa come macchina per la produzione di certificati o di richieste di esame specialistico. Ecco, tutto questo fa sì che ci rendiamo conto che comunque il mondo medico è in movimento. Dall'altro lato il mondo dei cittadini, il mondo delle persone è in movimento ovunque, ma questo fa parte di un cammino che non sto giudicando in bene o in male, di un cammino di empowerment che ci porta ai moti del Maghreb e dei paesi arabi, così come ci porta alla richiesta di maggior trasparenza nelle azioni delle istituzioni ovunque da un punto di vista globale. In tutto questo, evidentemente, la rete, per cui le risorse in internet, per cui le conoscenze costruite come conoscenze condivise, per cui un certo tipo di positività nello sviluppo dei social network, ecco, tutto questo fa parte, penso, oggi come oggi, chiamiamolo così, del cammino della nostra umanità contemporanea. Questo evidentemente però va di pari passo con il fatto che online io non so mai esattamente cosa trovo. E questo soprattutto quando riguarda la salute di persone, la salute di bambini, la salute di famiglie, di pazienti anziani o di pazienti con malattie rare. Ecco, tutto questo apre uno scenario che non ha al suo interno soltanto elementi positivi, sì, ma può avere al suo interno anche elementi fortemente negativi, se non addirittura pericolosi. Io credo che ciò che abbiamo visto nel periodo della suina, per cui la mancanza di informazioni chiare da parte delle istituzioni e degli enti di ambito medico-scientifico internazionale e in compenso una forte emergenza di controinformazioni, ecco, tutto disordine. Questo in quel periodo probabilmente ci ha mostrato che oggi come oggi non si può più evitare di avere un controllo, non nel senso di un controllo verticistico o governativo, ma un controllo di tipo autorevole dell'informazione quando occupa il terreno della sanità. Questo oggi è un dato di fatto. Quello che tu dici poi nel tuo libro è che bisogna che la gente capisca che se vuole trarre informazioni di tipo medico, terapeutico dalla rete deve imparare ad andare a cercare in certi siti autorevoli e non in qualunque pagina appaia. In conclusione però voglio dire un'altra cosa, la dico io perché non puoi dirla tu, sul tuo libro, che è molto bello. Questo libro è anche interessante non solo perché si interessa di medicina, ma anche perché si interessa di rete e di utilizzo della rete. Quindi è pieno di dati su come com'è l'interazione fra il pubblico e questo grande tema che attraversa appunto la rete, che è la salute. Quindi sono osservazioni di tipo mass mediatico, come si dice in gergale. Walter, ti ringrazio e auguri per il successo del tuo libro, che ricordo è Sanità e Web, edito da Springer. Grazie a te e soprattutto ringrazio gli ascoltatori che hanno avuto la pazienza di ascoltarci. No, mi raccomando allora, ci sono cose interessanti sulla rete per quanto riguarda medicina, terapia, salute, però dovete informarmi un po' sull'autorevolezza delle fonti e questo vale anche per altri argomenti. Noi abbiamo concluso questa puntata di Mebius, ci sentiamo fra 7 giorni, buona settimana a tutti e a tutte.